azione di Gallo, prende il rimbalzo Sgarlata, Beppe che è 2,4 metri sta a centrocampo, perché in questa posizione sbagliata? Un giocatore come lui, tutte le palle sporche deve prendere lui. Sgarlata continua il secondo quarto, terzo quarto, cioè il secondo tempo alla vecchia maniera, diciamo come ha iniziato il primo. È lui l'anima di questa squadra stasera. Veramente forte Nino Sgarlata. Intanto siamo in fase difensiva con Trapani che prova una penetrazione, fischia di passi in partenza a questo numero 12 di Vita. I passi in partenza c'erano tutti. Torna a schierarsi in campo il numero 8 Malizia, uscito sapientemente, ha fatto uscire dal coach perché con tre falli dopo due quarti. Adesso rientra, naturalmente proverà a sfruttare anche Malizia il Trapani. Cefalù ancora in avanti, attacchiamo per linea esterna. Sgarlata in posizione di guardia, riceve palla, prova un tiro da tre. Adesso recuperiamo il rimbalzo con Carlos Gallo, siamo in posizione di angolo. Carlos prova un'azione personale, Trapani in contropiede e segna, naturalmente, perché è la regola del basket, canestro non fatto, stare, è canestro subito. Spalle a canestro più di due secondi. Carlos credeva che il ragazzino lo avesse lasciato libero, invece è arrivato il raddoppio, gli hanno fregato il pallone. Pure Carlos cercava qualche taglio che si inserisse per scaricare il pallone. Comunque Cefalù sul perimetro sta facendo girare meglio la palla e, come vedi, gli uomini d'esperienza, Sgarlata cerca sempre di avvicinarsi. Il 7 Gentile recupera il pallone, veramente non si ferma su nessuna palla. Ciccio, non si ferma su nessuna palla, è un giocatore veramente validissimo, anche se di giovane età, però realmente sta facendo la differenza oggi in campo. Sembra una mosca atomica, mi ricorda Giovinco, esile però sempre presente. La formica atomica, come soprannominato Giovinco, effettivamente potremmo usare lo stesso termine per Guarda questo ragazzino. Con coraggio si butta dentro. Sfida l'uno contro uno, sfida, riesce a recuperare palloni su palloni, davvero un buonissimo giocatore. Un po' sulle gambe il Cefalù in questa azione, cerca il pick and roll Carlos Gallo con esperienza, va fino in fondo e subisce fallo e fa canestro. Questa è una soluzione che però devi usare nei minuti finali, quando hai bisogno veramente. Fare prendere contromisura questa soluzione significa che se poi ti serve per vincere la partita, loro non la puoi sfruttare, esatto, come sanno come bloccarla. Esatto. Comunque è meglio che fa due punti ora e cerchiamo di staccarci e portiamo a casa questa partita. Si prepara Monaco sul cambio, la partita per la gente esperta, quindi Carmelo Monaco deve dare tutto quello che può dare, anche perché Sgarlata lo vedo un poco troppo affaticato. Credo che sia opportuno dargli un po' di riposo adesso, anche se il vantaggio è esile, Peppe, soltanto 3 punti, 47-44, giusto per ricordare anche il punteggio. È un vantaggio esiguo quando mancano 5 minuti allo scadere del fine del terzo quarto. Cefalù 47 e Trapani 44, abbiamo la possibilità di sfruttare un tiro libero per il fallo subito da Carlos Gallo nella penetrazione che valsa 2 punti per Cefalù. Adesso Fiasconaro dovrà nuovamente cambiare modulo perché dovrà fare riposare un po' i lunghi in vista di un quarto quarto che, se continuiamo in questa maniera, si preannuncia veramente al cardiopanico. Riposare anche Carlos, che è stanco da un viaggio intercontinentale, perché abbiamo detto che è tornato dall'Argentina. Riposato è ora Carmelo Monaco, ma chi deve ancora dare, che può dare di più, è Peppe Derrasi. Solo che Fiasconaro preferisce far rimanere in campo Sgarlata, perché è l'anima in attacco di questa squadra, e fa uscire Peppe Derrasi e al suo posto Carmelo Monaco. Quindi diciamo, no, ancora non è entrato Carmelo, credo sia entrato Pirrone in questo momento. Pirrone, Carmelo è sul cambio, forse entra al posto di Carlos. Sì, aveva messo dentro Pirrone. Vediamo chi porta la palla avanti. Penso ora che adesso la porterà Pirrone oppure Carmelo Monaco. Vediamo cosa però succede. Se Carlos per uscire vuol dire che sta veramente stanco. Intanto non cambiamo la marcatura su Gentile, che fino ad ora è servita in questo scorcio di partita. Trapani è con il miglior quintetto che potrebbe avere in campo, a mio modesto parere. Vediamo se Pirrone prova questa penetrazione. La prova in contropiede. Buoni 2 punti di Vice Pirrone, siamo a più 6. Potremmo e dovremmo prendere il largo adesso. Difendere sporco, difendere sporco e ce ne andiamo via, perché loro fanno contropiede ma subiscono anche contropiede. Guarda Gentile, sporco, guarda Gentile sporco. Come guizza, le però mani è... sulla palla, le mani sulla palla, lasciato libero Gentile, riesce... per un attimo da maniscalco ci ha puniti. Riesce a fare anche questo, mettere le bombe e quindi... È un uomo che si deve marcare come si marcava al mini basket, faccia a faccia. Da Roberto, piace tanto a Roberto questo ragazzino. Quando tu vedi in campo un giocatore che riesce ad esprimere al meglio tutte le sue doti, poi in questo caso è riuscito anche... a completarle con questo tiro da tre, quindi credo che un elogio per questo ragazzino che adesso cerca la penetrazione, un elogio va fatto. Fatemelo dire, secondo me c'è un errore adesso in fase difensiva, abbiamo cambiato la marcatura su Gentile. Vincenzo Pirrone non ha le gambe per poter tenere un giocatore che ha questo guizzo. Forse guardate invece Genovese, Genovese lascia su Toto Maniscalco proprio Gentile, proprio perché ha capito che i due migliori difensori devono marcarsi. Ho capito. Tenta una penetrazione Marsala, che pure è freddo perché ha giocato poco in questa partita. Questa squadra deve trovare la continuità in attacco partendo dalla difesa. Se tutti insieme difendono forte Sport in casa, vanno in contropiede, non c'è bisogno di creare tanto in attacco, Peppe. Se loro non si concentrano sulla fase difensiva, questa partita sarà veramente tosta da portare a casa. Beh, infatti io penso che queste squadre così di giovani si attaccano con cose facili, penetrazione, scarichi sugli angoli, non c'è bisogno di fare schemi foraginosi, anche perché di gambe questi ragazzini ne hanno tante, quindi appena noi molliamo un attimo e quindi arriviamo che so leggermente in ritardo su una posizione dello schema, veniamo subito anticipati. Io credo che si debba attaccare veramente come si attaccavano le squadre dei cadetti, dei juniores, questo il modo da attaccare. Palla in attacco per Trapani. Io volevo lanciarvi una sorta di domanda per tutte e due: come mai il momento in cui siamo sotto riusciamo a recuperare, però poi una volta recuperato lo svantaggio poi tiriamo un po' il remo in barca? Perché Cefalù è stanco, perché Cefalù non ha la forza di continuare un'onda che crea, ma si spezza sempre. Ma questo è pure grazie agli avversari, che sono bravi e ti fanno subito un contropiede. Hanno tante gambe questi ragazzini, e noi invece siamo fermi sulle gambe. In quest'attimo stavano parlando intanto Nino Sgarlata e Toto Maniscalco che prova a liberarsi. Guarda, hai visto? Pulito, Pirrone, i ragazzini ci lasciano gli spazi e quindi poi li andiamo a punire in questa maniera. È normale che sia così. Non hanno tanti aiuti difensivi e quando marchi a uomo poi questo succede. Mi sa che sta arrivando qualche errore da parte del Trapani, che noi stiamo sfruttando, effettivamente possiamo dire che stiamo sfruttando al meglio. E Massimo Fesconaro adesso fa entrare Alessandro Tumminello, non so per quale arcano mistero, francamente, fatemelo dire. No, ha fatto uscire a Maniscalco. Chi lo marca ora Gentile? Non lo so, non ne ho idea. Adesso questa è una scelta del coach, vediamo cosa succede. Intanto la prima palla persa dopo questa sostituzione. Gentile da solo, guardate come scarica e come possono mettere a segno con i piedi. Non si può fare tirare un ragazzo di 18 anni coi piedi per terra da tre punti, perché quello ci punisce. Ma troppa libertà, troppa. Da 3 secondi l'ha visto, aspettava, quindi lui ha preso bene la mira, sa come si tira da tre e quindi giustamente ha messo la palla dentro. La difesa è importante. Io credevo che Maniscalco si stesse facendo la migliore partita, cioè il miglior uomo in difesa, Maniscalco. Non capisco perché ci vogliamo complicare la vita. Non lo so. Comunque avrà avuto i suoi motivi Fiasconaro per cambiarlo. Ora speriamo che questi giovani che ha messo lo tengano anche meglio sulle gambe. Dico, forse... il punteggio non è tranquillo, quindi a questo punto non credo sia opportuno fare questo cambio. E allora vai avanti con questa formazione. Esatto. Allunghi e poi magari... Esatto, io non capisco. Tu da profano giustamente dici una cosa del genere. Non la capisco neanche io, non la capisce penso neanche Ciccio. Capire perché l'ha fatto. Ora voglio leggere di più dopo la partita cosa succede ora. Forse lui conosce i ragazzi meglio di noi. Questo sicuramente, non lo so, può darsi che pure Maniscalco avrà chiesto il cambio. Ma comunque ora c'è la difficoltà a portare la palla avanti. Conoscendo Totò, a meno che non abbia una gamba ingessata, credo che il cambio non lo chieda mai, Giuseppe. Conoscendo tutto questo è bene. Comunque. Tumminello cerca l'uno contro uno, penetrazione, scarica dell'angolo per Carmelo Monaco. che rischia un passaggio fortunati. Veramente tira Pirrone, sbaglia, ma è un leone stasera Sgarlata prende il rimbalzo e mette due punti che sono importantissimi in questa fase di gioco quando manca un minuto e 20 secondi alla fine del terzo quarto. Cefalù 54 Trapani 50 e Trapani in attacco con questi ragazzini che veramente ci stanno mettendo tanto in difficoltà. Buona recuperiamo difesa, questo pallone con Alessandro Tumminello, vediamo cosa succede adesso. Prova un uno contro uno Alessandro e perde questa palla. No, addirittura io credo c'era anche fallo qua, l'arbitro ci dà rimessa contro, ma va bene anche questo. Possiamo dire che rispetto ad altri arbitraggi oggi forse sono stati i meno peggio. Forse qua c'era fallo su questo, ma l'arbitro era proprio là sotto. Ecco che Gentile porta palla avanti atteso da Tumminello. Ora hanno recuperato due palloni perché Peppe c'erano col corpo addosso all'avversario e quindi li hanno sbilanciati. Guarda l'esperienza di Sgarlata adesso che anticipa, sceglie l'attimo giusto per anticipare una persona che è più corta di lui. Naturalmente ha sfruttato il braccio lungo Sgarlata. L'arbitro non decide di darci la rimessa, ma forse era per Cefalù. Di nuovo Gentile che prende palla per Trapani, prova questa impenetrazione. Guarda come restiamo fermi sulle gambe. Sembra e burro. Subiamo. È troppo forte in penetrazione sto ragazzo. Dico vabbè che è forte in penetrazione. Ecco l'inesperienza di Pirrone. Nessuno dei compagni però l'ha avvisato. Ecco qua. Meno male che sono ciucci. No, ha parlato troppo presto. Gli arbitri cominciano a fischiare qualcosa. Dobbiamo essere onesti però. C'era il fallo di Carmelo Monaco sul tiro e allora l'arbitro ha voluto restituire probabilmente. Ha bilanciato, come si suol dire. No, guarda, diciamo che subito in campo Carlos Gallo, perché Massimo Fiasconaro non è masochista. Subito in campo Gallo che deve portare la palla avanti. Io francamente, eccolo Carlos, vedi come dà fastidio. Sporca sempre sono tutto. Ste cose che fanno perdere l'attimo. Guarda anche Dino Sgarlata. Guarda. Peccato, è vero, è Mona, è giusta segnalazione. Peccato perché era una palla recuperata questa, Roberto. Dico, era una giusta segnalazione, però peccato, l'importante è che però abbiamo difeso bene in questa occasione. Colpiglio giusto, è questo che voglio, questa difesa. Esce Dino qua. Sgarlata, entra Peppe Terrasi, prenderà fiato in questi ultimi tre minuti del... Qua, gli ultimi 10 minuti sono quelli che ti fanno vincere la partita. Te l'ho dico detto, è una che, partita che a Sgarlata si dia un attimino di riposo, a questo punto può starci. Siamo sopra di 2, 54-52 a 3:30 dalla no, penso che siano 33 secondi col fatto che alla fine segnati in questa maniera, perché noi siamo troppo presi dalla radiocronaca, alcune volte perdiamo effettivamente un po' l'orientamento per quanto riguarda il timer. Dal punto di vista psicologico credo che sia importante finire in vantaggio questo terzo quarto, perché così Trapani potrebbe un pochettino capire che non avrà vita facile nel quarto. Abbiamo in mano la palla della penultima azione di questo terzo quarto. Carlos chiama lo schema, riceve palla vicino Pirrone, adesso nuovamente palla a Carlos e sotto c'è Peppe Terrasi che chiede palla. Mancano 6 secondi, passi di difesa, Carlos Gallo, difesa forte del 13 che costringe Carlos a muovere il piede perno. Hai visto Peppe Terrasi come chiamava palle? Non con la stessa intensità Sgarlata, aspettava invece di fare il passo avanti all'avversario, è quello che deve insegnare a lui Sgarlata, è lo stesso Fiasconaro. Vediamo se riusciamo a non mandarli al canestro. E invece c'è il blocco di... c'è un fallo di Carlos provvidenziale, lo possiamo dire, un fallo pure abbastanza tosto. Provvidenziali danno due tiri, a mio avviso questi due tiri non ci sono perché non era in penetrazione il giocatore. Adesso c'è un po' di proteste in campo. Due tiri liberi e 4 secondi per Cefalù. Si scalda un po' il pubblico di Cefalù. Però credo che è uno dei due. Un ragazzino che timidamente ha chiesto forse un fallo intenzionale perché si è fatto male, ci ha fatto due schiaffettoni. Mette dentro il primo canestro Gentile, adesso vediamo il secondo tiro libero. È un giocatore completo, un playmaker completo questo ragazzo. Dentro anche il secondo, palla per Cefalù, gli ultimi 4 secondi per un eventuale canestro. Prende palla Carlos Gallo, scivola. E poi spero di no, perché si tocca l'inguine, io spero di no. stata una brutta scivolata da parte di Carlos. Dico, i problemi della condensa sono stati tragici per Cefalù. Io ricordo anni in cui noi aprivamo le porte, giocatori che si sono fatti veramente male su questo campo, sul vecchio parquet che c'era, perché ricordiamo questo che pallone... quest'anno il parquet è stato fatto nuovo, quindi sì, ma non è problema di parquet, è problema della condensa. Se dentro e fuori ci sono temperature completamente differenti, si crea questa patina. In questo periodo ci sono, Ciccio, problemi purtroppo si risolvono solo con un impianto di riscaldamento qua dentro, un impianto di riscaldamento che il buon Zannella, padrone spirituale di questa squadra, aveva fatto. Mi ricordo un anno solo ha funzionato l'impianto di riscaldamento. Anch'io me lo anche ricordo. Se costava 150.000 lire riscaldarlo per una serata, perché di cherosene si spendevano, però c'era. Beh, oggi potrebbe essere abbattuto quel costo, però vedremo un po'. Va bene, ci apprestiamo alla parte finale, Peppe. Che cosa deve fare Massimo Fiasconaro per portare a casa questa partita? Guarda, cosa devono fare i ragazzi? Io dico una cosa, deve fare una cosa sola, non deve complicarsi la vita, perché stavamo prendendo il largo e mentre stavamo prendendo il largo da solo Massimo si è complicato la vita cambiando tre quinti del quintetto che in campo stava portandosi a sei lunghezze di vantaggio. Quindi sei polemico con l'allenatore? Non sono polemico, però dico, credo che siano Roberto, i fatti effettivamente danno ragione a questa osservazione. Sei punti sopra, dopo che hai rincorso per una partita cambi tre quinti della squadra, ti ritrovi di nuovo a essere 54 pari. Credo che qualche cosa non vada nelle scelte. Io allora, non voglio condannarle, vediamo come riparte per questo ultimo quarto. In campo c'è Terrasi, c'è Carmelo, aiutatemi che mi sfugge, Carmelo, allora, Monaco, Terrasi, Carmelo Monaco, Marsala, Gallo Pirone. E Pirrone. Perfetto, questo è quindi un quintetto ancora diverso da quello che era riuscito a portarsi in vantaggio e ad allungare. Vedremo un po'. Giuseppe Livecchi, allora continua Cefalù ad andare in zona d'attacco, proviamo a sfruttare un po' di blocchi. Carlos in posizione di guardia destra, imposta verso Terrasi, ribaltiamo dall'altra parte su Carmelo Monaco che perdiamo il pallone. Un no look di Carlos Gallo che forse ha qualche problema, perché ha perso una palla che di solito non perde, ha passato la palla all'arbitro. Però a sette secondi credo sia un po' azzardato fare un no look del genere, poteva a questo punto credo era meglio tentare il tiro. È buono comunque questa difesa, a me piace che Pirrone faccia fallo sul 7, non lo lasci respirare, anche se caricarsi però di falli troppo, andare subito al bonus non è favorevole per l'ultimo quarto. Ecco, libero sull'angolo. Scarica e libera sull'angolo. E chi ha scaricato? Lo solito Gentile. Sì, sì, perché sì. Non riescono a tenerlo. E perdere la palla, i rimbalzi difensivi, io là mi arrabbio con Peppe e con Carlos là sotto. Di nuovo stavano perdendo il pallone. Guarda questa palla ancora. Non meno è sicuro. Male, questa male. Sicurezza dobbiamo, ci fa permettere la sicurezza dei rimbalzi difensivi, ci permette di partire in contropiede e quindi noi perdiamo due punti ogni volta. Esattamente, perdiamo due punti nelle occasioni di contropiede. Non so se hai notato la bravura di questo Gentile nel passare palla sotto. Buono l'assist di Carlos Gallo per Carmelo Monaco sotto canestro, che è di sinistro stranamente. Ha fatto un canestro guardando l'avversario e sperando che non saltassi per stopparlo. Di nuovo Gentile con la palla in mano cerca di impostare. Loro chiama, appena ricevono la palla subito riceve. Guarda Carlos Gallo come bravissimo. Carmelo si butta. Questo è un canestro. Questo. Che è successo? Che chiama? No, questo non c'è. Questo peccato, non c'è. Peccato. Chiama un intenzionale a Carmelo Monaco, l'arbitro. Probabilmente avrà visto qualcosa che noi non abbiamo, sì, non abbiamo visto. D'altra parte Carmelo ha mantenuto la gamba dell'avversario, non gli ha permesso di alzarsi. Ma mi pare strano, però. Probabilmente c'è stata una trattenuta a terra. Ho sbagliato io, però non ha chiamato un intenzionale, ha chiamato un fallo normalissimo. No, pensavo avesse chiamato un fallo intenzionale. Scusatemi. Quindi invece... non sono due tiri liberi, di nuovo la palla in mano a Gentile a 56-54, il vantaggio del Cefalù a 8 minuti e 19 dalla fine, mentre campo tenta l'1 contro 1 contro Peppe Terrasi che lo tiene. Buona. Guarda Malizia. Eccolo sul perimetro Gentile, speriamo che non segni e non ha segnato. Pirrone piglia la palla con un po' di leggerezza a Gentile, gliela stava portando via, va avanti, Pirrone serve in angolo a Marsala, si scivola da quel lato del campo. Devono stare attenti i giocatori. C'è Nino Sgarlata che è rientrato e cerca palla nella posizione di pivot basso, perdiamo un altro pallone con Carlos, si lotta in maniera furibonda, ha chiamato un fuori adesso l'arbitro perché Carmelo Marsala aveva recuperato il pallone, però era finito con i piedi sulla linea di fondo. Intanto aspettiamo di poter asciugare il campo dopo questa caduta e rientra Totò Maniscalco. Ho paura che la condensa ci rovinerà questo finale di partita. Vedo da un lato del campo destro, dal lato della panchina del Trapani, che i giocatori fanno fatica a rimanere in piedi, mentre Massimo Fresconaro fa uscire Carlos Gallo affaticatissimo, forse per i minuti cruciali, se lo vuole penso se lo voglio tenere dentro per gli ultimi tre minuti sicuramente. Intanto e siamo di nuovo a Maniscalco. Fa entrare Totò Maniscalco che giustamente che subito messo sull'uomo più pericoloso di Trapani, che è Gentile. Bravo. Intanto Trapani in attacco con campo dell'altezza della linea di tre punti. Ecco Gentile, vedi, non prova più le penetrazioni che provava prima. Recuperiamo questo pallone importante. Infatti, finalmente. Fischiati i passi a campo, ha alzato i piedi da terra. Chiuso bene da Peppe Terrasi, dai, dobbiamo dire che si sta impegnando un po' di più in difesa, e da Carmelo Marsala. Maniscalco la palla, vediamo chi la porta avanti. La con porta avanti timidezza Pirrone. Ha chiamato lo schema, speriamo di avere la sicurezza di impostare il gioco, perché Carlos Maniscalco ci permetteva. Prende palla, guarda. Attacco. Subisce fallo Sgarlata e l'esperienza come al solito. Sì, Sgarlata si sta subisce facendo sentire. Io francamente non l'avrei fischiato questo pallo perché ormai aveva preso pallone. Forse faceva canestro, francamente. Poteva andare a canestro. Ma credo si usi poco la regola del vantaggio nel basket. No, di fatto non esiste. Lo dico, qualche arbitro che magari riesca a chiudere un occhio, è difficile da trovarlo. Carmelo che Marsala che difende palla, prova Pirrone, mette dentro. Si prende una grossa responsabilità, eh. Ora dobbiamo difendere, esatto, e pigliare esatto, uno stacco esatto, decente. Esatto. Meno male che per ha sbagliato. Non ci hanno punito. Pirrone guarda, porta la palla avanti nell'angolo per Maniscalco. Credo che anche Pirrone sia da, addirittura sì! È lui che vuole vincere la partita, questo ragazzino. Cosa sta combinando Pirrone? Si è preso una libertà incredibile, degna di un veterano del basket. Ai, peccato. Canestro buono, è un tiro. Forse. Sì. Tre punti pure per loro, forse. Però intanto siamo a più 6 e respiriamo un po'. Vediamo cosa ha da dire Massimo. Sì, però Peppe, qua dovevano difendere sul più 8. Difendere ora, andare a 10, significava mettere un'ipoteca sulla partita. I ragazzi si rilassano purtroppo. E dobbiamo soffrire. Gentile fa 3 punti, 2 più fallo subito. Quindi siamo di nuovo a 5 punti. E la impresa di Pirrone di 6 punti veramente straordinaria, bravo. Penetrazione di Totò Maniscalco e va dentro. Ed è dentro questa penetrazione di Totò Maniscalco. 6-4 Cefalù, 5-7 Trapani, 6-15 da giocare. Una partita che ci sta riservando un ultimo quarto davvero emozionante. Intanto è Trapani in attacco con Gentile, col solito Gentile che manovra verso i propri compagni, riprende di nuovo palla, prova ad anticipare Totò Maniscalco a nostro avviso prende il pallone, comunque l'arbitro fischia il fallo ci stava, l'intervento era un pochettino sporco, ci sta anche questo fallo. 64-57 a 6 minuti e 05 dal finale, che si sono lamentati i miei parenti di Napoli perché non sapevano il punteggio. Noi parliamo tanto della partita però ci dimentichiamo di ricordare il punteggio. 64-57 a 5-58. Buona la difesa, Pirrone prende il rimbalzo, Carmelo scappa sulla fascia, attenzione che la si scivola e va deciso. Peccato. Recuperiamo palla. Buono. Buona la palla ancora per Sgarlata, decidono di giocarla. Passi in partenza, fischiati a Maniscalco. Peccato, perdiamo una bella occasione per portarci sul più 9, però va bene così. Va bene così con Pirrone. Guarda la grinta di Totò Maniscalco che va a prendersi tutto, esatto, campo. Bravo, dopo bravo. Aver fatto l'errore va a prendersi tutto campo il proprio avversario. Ora vediamo se riesce a tenerlo. Ecco, lui non penetra più così facile come penetrava. Ha capito adesso che la difesa. Duro, però è lasciato libero. Guarda. Purtroppo la coperta corta. Se lo marchi troppo stretto ti batte uno contro uno. Se gli lasci mezzo metro chi sta cominciando a segnare da tre, e siamo a 64-60, a 5 minuti e 10 dalla fine della partita. Circola la palla sulle linee esterne, Marsala cerca un palleggio e tiro, ma riprendiamo il rimbalzo per fortuna. Nino Sgarlata invita alla calma, c'è un fallo subito, il canestro no, non è buono. Roberto, regola del vantaggio, sarebbero 2 punti. Infatti, niente, al basket dobbiamo cambiare queste regole. Parliamo meglio, dai. Bene, così. Rimessa da fondo campo, naturalmente. Prende palla Toto Maniscalco, serve Nino Sgarlata. Di nuovo Nino Sgarlata, altezza 3. Non capisco perché giocano alti i nostri pivot, non lo capisco proprio. Questo è un fallo che l'arbitro non avvisa. C'era il fallo, sono tre liberi. Perché non è una stoppata, quello lì è un fallo, ha preso in pieno la mano. Infatti, lo fa notare anche Toto Marsala, il presidente, che non sta più seduto. Palla a Marsala che scarica Pirroni, che chiama lo schema 2. Marsala dalla linea dei tre, peccato. E Toto Maniscalco prova a prendere rimbalzo, ma la palla dovrebbe essere nostra, no? L'arbitro la consegna a Trapani. Mancano 4:35, 64 Cefalù, 60 Trapani, non dobbiamo rilassarci adesso, dobbiamo provare ad allungare in questo momento. Guarda Toto Maniscalco che marca tutto campo, il play del Trapani, il play gentile che riceve un blocco, prova una penetrazione. No. Queste sono cose che non si devono fare. Questo lasciati liberi, completamente sotto canestro. Dai, segue quell'uomo. Un'autostrada davanti. Esatto. Perché ti aiuto io, ma aiuti tu, esatto. Nessuno dei tuoi ha aiutato, e quelli sono andati per i fatti. Sgarlata prende palla, Sgarlata sotto canestro, come un leone là sotto. Ne ha 5 sopra. Però 3 uomini addosso, forse doveva scaricare la palla. Ecco, in quel caso, Roberto, hai 3 uomini addosso, i tuoi compagni devono tagliare. Devono per forza ci devono essere 2 uomini liberi, perché certo. La matematica non è un'opinione. Se tu te ne tieni 3 addosso, c'è di nuovo cambio. Il cambio che dicevamo prima, Carlos dovrebbe fare gli ultimi minuti. Adesso siamo in campo con Pirrone, Gallo, Maniscalco, Sgarlata e Terrasi contro Trapani che non vuole Carmelo mollare. Monaco a questo punto. Ma sì, io forse toglierei Pirrone e metterei Carmelo Monaco anche per essere più altini. Intanto Sgarlata prende palla, non andiamo a canestro, forse peccato, subisce fallo. Peccato, guarda Carlos, rimane fino ancora uno. Però contro uno Maniscalco. Ho notato nelle ultime, vediamo se è un po' se è esatta la mia osservazione, ho notato nelle ultime due tre azioni che Sgarlata è preso di mira, marcata uomo strettissimo, quindi non lo fanno più muovere e lui deve scaricare, però sono i compagni che devono tagliare e farsi vedere per ricevere. Guarda Nino, subisce fallo, non lo ravvisano gli arbitri, vedi, questo però è fallo, era fallo netto. Subiscono fallo. Vaglia pure Gentile, uno contro uno da sotto. È ormai prevedibile il gioco del Cefalù, capisci? Cercano Sgarlata, spalla a canestro. Niente, siamo abituati e anche in questa occasione dovremo soffrire fino all'ultimo. 64-64 a 62-62 per il basket Zannella Cefalù contro il Virtus Trapani, in diretta audio video con CRMP Radio, che vi regala queste grandi emozioni. In questo caso il basket, stiamo seguendo il campionato maschile Serie C in lunetta il Trapani, siamo sopra di 2, però non riusciamo a scappare via. Boccata d'ossigeno per Carlos Gallo e dei ragazzi del Cefalù per permettere gli addetti a pulire il campo, asciugare, perché la condensa, un po' il sudore dei giocatori che cadono rovinano la stabilità di questo impianto. Ora 2 tiri liberi per questo ragazzo che con tenacia ha conquistato il rimbalzo sulla penetrazione, sul tiro sbagliato di Gentile. Malizia in lunetta, mette il primo, 64-63, vediamo il secondo tiro libero. Tra l'altro vedi Trapani rinuncia ad andare a rimbalzo con il suo secondo uomo. Dentro anche il secondo, di nuovo parità, tutto da rifare quando mancano 3 minuti e 10 secondi e Cefalù in attacco con Pirrone prova Gallo, a servire Gallo in posizione di playmaker. Giriamo la palla, dovremmo cercare di servire i nostri pivot, ma non spalle a canestro, io non capisco, ecco, vediamo adesso se Terrasi stoppato, raddoppiano subito sotto. Errore grandissimo, ha ricevuto la palla alta, l'ha portata bassa, già dall'alto lui doveva tentare di tirare, stava sotto canestro. per prendere un poco più di equilibrio ha portato la palla bassa, capisci? Comunque è rimessa dal fondo per Cefalù, almeno la palla è rimasta in mano a noi. Rimente Maniscalco, buon tiro, questo è il tiretto di Carlos, peccato. Ah, peccato, questa palla potremmo fare nostra. È incredibile, ecco, incredibile quello che ha fatto Gentile, è incredibile. Subiamo. Un dribbling, diciamo, e calcio. Ha fatto un'azione. E siamo di nuovo sotto, ragazzi, 66 Trapani, 64 Cefalù. Dobbiamo trovare un po' di lucidità in questi ultimi minuti di questa partita. Perdiamo un altro pallone e viene fischiato, mi sa, questa volta l'intenzionale a Carlos Gallo. Intenzionale a Carlos Gallo. Intenzionale a Carlos Gallo su palla persa verso Peppe Terrasi di Pirrone. E cosa dire, Peppe? Ora la partita cosa dire? Si cosa gioca. Dire adesso la partita si gioca. Che sembrava ridere a nostro favore. Vorrei adesso essere ripetitivo, si gioca in una fortissima, ma fortissima difesa. E in due minuti di tifo caldo, se tu recuperi un pallone e scappi in contropiede, vinci questa partita. Esattamente. Perché si scalda il pubblico, si scaldano i giocatori. Difesa forte, fortissima, recuperare palle e scappare in contropiede. Esatto. Se riusciamo a fare questo, portiamo a casa la partita. Se non riusciamo a fare questo e subiamo canestro, anche se ora abbiamo purtroppo due tiri liberi contro, perché questo è fallo intenzionale, l'avrei chiamato. Quindi saremo potenzialmente sotto 4 punti. E quindi Cefalù si deve dare per forza una scossa. Come ti ho detto io, i ragazzini o li pieghi prima oppure te li porti per tutta la partita addosso. Esattamente. Infatti non hanno avuto nessun timore nell'affrontare i nostri giocatori, questi due piccolini, ma sono piccolini sia di statura che di età, soprattutto ricordando che in campo ci sono ragazzini tipo Gentile, ma credo che anche il numero 12 di Vita sia giovanissimo, lo si legge proprio sul viso, però Gentile, anche se di giovanissima età, ha veramente dato un contributo enorme. Credo che la palma di migliore in campo spetti proprio a lui a questo punto. Sì, perché è praticamente immarcabile, praticamente ovunque lui segue il pallone, difende, scappa in contropiede, lancia, libera il compagno sul perimetro per il tiro, ha permesso parecchi tiri ai compagni proprio coi piedi a terra, perché si attira addosso tutti gli uomini, poi scarica trovando l'uomo libero sull'arco dei ed eccolo adesso in lunetta. E ora sulla lunetta due tiri liberi. Con la freddezza di un veterano mette dentro il primo. Ma la cosa più brutta è che hanno il possesso dopo i tiri liberi. Adesso è tutta in salita davvero. Speriamo che Cefalù riesca a mettere la marcia giusta per... Quanti anni avrà secondo te il 12? L'hai visto in faccia? Io, guarda, infatti parlavo di Vita oltre a... Ah, Gentile, parlavo di questo numero 12 di Vita, che anche lui sarà in giovanissimo in campo negli ultimi due minuti di una partita punto a punto. Non credo più di 19 anni, 18-19. Ma di meno. E lì è l'allenatore, lì è l'allenatore che avrà, secondo me. L'allenatore che vuole giocarsi, vuole fare crescere i ragazzi, perché quando metti a due minuti un ragazzino quanto del genere, quanto cresce un ragazzo giocando questi due minuti? Guardalo con che freddezza. Cefalù. Bisogna recuperare palla, bisogna recuperare palla. È questa la difesa che permette di vincere la partita. Addirittura Di Vita si prende questa responsabilità. Prendiamo il rimbalzo, fortunatamente. Carmelo Monaco in campo al posto di Carlos Gallo. Monaco al posto di Gallo, Dudo Pirrone. Ecco, bisogna una fiammata, il capitano, buttarsi dentro. A tutti al rimbalzo, Peppe al rimbalzo, Peppe, tutti al rimbalzo come delle saette. Peccato, rimbalza difesa più forte, di una volta sul ferro. Difesa forte, Roberto, dobbiamo difendere. Bravo Carmelo! C'è fallo di Gentile, eccolo. Fallo di Gentile. Però anche questo è, diciamo, un po' d'esperienza. Cioè, però ha perso palla prima, Roberto. Ha perso ora, palla. Non giustifichiamolo. Diciamo, è stato raddoppiato. Non se l'aspettava, ha perso pallo, però è stato furbo a non far fare canestro, a fare un fallo. Ecco Peppe sotto canestro. Dallo! Danno canestro valido. Ci danno un canestro valido, lo posso dire. Meno male. Lo posso dire, forse il canestro valido non c'era. Forse un po' prima. Aveva fischiato prima. Però comunque c'è continuità, dai, in casa c'è sempre la continuità. No, ma è giusto, è giusto. Parla di mezzo secondo. È giusto, sarà un minuto e trenta. Piasconaro. Allora intanto 66, diciamo 66-68 a 1 minuto e 32 dalla fine, con Cefalù un tiro libero, quindi un punto Vediamo. Sarà un minuto e 30 da giocare, da soffrire tutti insieme. Giustamente Fiasconaro chiama questo time out perché si deve giocare il tutto per tutto per cercare di sovvertire le sorti di questo incontro. Tra l'altro un incontro che ha visto un Cefalù a due facce. Domanda: ma Monaco il raddoppio l'ha fatto lui per istinto suo o gli sarà stato ordinato dalla panchina? Penso sia stato voi. Un grande istinto quello di Monaco, perché infatti, è un lottatore. Il lottatore è il capitano che cerca di dare, e lo ha fatto sempre. Noi ne abbiamo anche raccontato queste sue gesta durante i vari incontri. Lui non molla mai, forse è sempre l'ultimo a tirare il remo in barca, anche contro la scorsa volta quando eravamo sotto di 20 punti a pochi minuti alla fine. Lui non voleva mollare, non ha mollato. Capite quindi, che importanza ha avuto quella palla? Ragazzi, 4 punti sotto, se loro segnavano andavano a 6, era la fine, poi poteva essere anche alla fine. Vediamo un po', c'è Giuseppe Terrasi in lunetta per questo tiro libero, 66-68, siamo sotto di 2 e mette dentro un punto e un minuto e 30 per soffrire. Chiama lo schema adesso Trapani. Porta palla di Vita e Gentile gioca la guardia. È questa la difesa che però purtroppo dobbiamo fare. Fallo fischiato. Ora vediamo se il ragazzino ha il coraggio. No, Carmelo non è 5 falli, non è 5 falli, Carmelo. Gli arbitri avevano segnato. O terzo o quarto fallo di Carmelo Monaco. È al quarto, credo sia al quarto fallo. Quarto fallo. Due tiri per Trapani. Infatti si correggono gli arbitri. Fuori la paletta dei 4 falli per Carmelo Monaco. E non so se notate, tutte e due le squadre sono in bonus, quindi adesso segna, si tira qualunque cosa. Segna Trapani. Ragazzino ha segnato. Quindi siamo a 2. Si salta forte ora. Sbaglia. No, due lunghi. No. Perdere il rimbalzo difensivo su un tiro libero. No, palla sul perimetro a un minuto e 30. Guardate, no, queste cose. C'era Pirrone che non sapeva qual era l'uomo che doveva marcare. Ora Peppe deve uscire. Eccolo libero il 14 che tira e sbaglia. Recuperiamo questo rimbalzo e potrebbe essere la palla del pareggio quando mancano 58 secondi da giocare ancora di questa partita veramente entusiasmante con un Cefalù dai due volti. Due punti sotto, palla in angolo a Monaco che penetra e fa canestro. Partita eventuale da supplementari, 46 secondi. Palla di Vita che porta avanti, 16 anni, porta palla avanti per la vittoria del Trapani. Ecco che Monaco accenna a un raddoppio, la difesa che salta, raddoppio di Monaco, il pubblico si scalda, capisce l'importanza della partita. Recuperiamo questa palla, dobbiamo recuperare questa palla, recuperiamo la palla. Sgarlata, un tiro con solo, calma. Un tiro solo, un solo tiro. 18 secondi o supplementare o vittoria. Chiama schema Pirrone, chiama schema. Parla Monaco. Io proverei una penetrazione. Scacco, Monaco, una capitano Pirrone. 7 5 Garlata. Non ci crede neanche lui. Finisce la partita, ragazzi. L'arbitro chiede chiarimenti, qualcosa vuole. No, aveva chiamato una sospensione, credo che avesse chiamato una sospensione il Trapani, giusto, quando mancava. Trapani. Sì, però bisogna vedere il time. Sì, scusa, però per regolamento sulla rimessa dal fondo non credo che ci sia la possibilità di chiamare. Negli ultimi minuti sì. Sospensione. Aveva chiamato sospensione quando mancavano 3 secondi. E ora però si litigherà per quanti secondi. Ma infatti mancavano ancora alla partita. Allora il tiro di Scarlata è avvenuto era a 4 secondi, quindi rimarrà un secondo. Tiro di Scarlata a 4 secondi. 4 secondi. Palla entra dentro, 2 secondi. 2 secondi. Sì, un 2 secondi rimarranno forse. Ora 2 secondi. Confabula e deciderà lui. Adesso la partita è nelle mani dell'arbitro, vediamo quanti secondi ci sono. 2 secondi. Siamo 3 punti. Solo un Viva Maria può rimettere in gioco il Trapani. Dico, un tiro da tre. Ne abbiamo visto di cose strane nel basket, di canestri fatti da tabellone. Addirittura 4 secondi. Vedo nelle mani del presidente. 5 secondi. No. No. No. Questo è sicuramente un errore. Perché a 4 secondi palleggiavano ancora. Allora io ho guardato la palla, è arrivata Scarlatta che erano 7 secondi. C'erano 7 secondi. Ah, 7? 7 secondi, però Scarlatta prima poi ha stoppato, tira, quindi sì e no saranno 4 secondi. Va bene, un tiro da tre rimette in corsa il Trapani nel World Cup supplementare. Sarebbe una beffa fare fallo su un tiro da tre, addirittura segnare e avere un tiro libero. Comunque Cefalù, non so se a questo punto conviene fare fallo a Cefalù e vanno dalla no, lunetta. No, io li lascio. Considera pure che devono rimettere da fondo campo. Quanti secondi li lasceranno? Allora, Peppe, a te l'incarico posso... di dirci no, questa... Allora, ecco, fallo. Ha chiamato un fallo a Lucina, non c'è questo fallo, è un fallo che non esiste, chiamato un fallo a Maniscalco, non esiste, sì. Non esiste l'arbitro. Sì. Non esiste, forse no, è l'arbitro no, che vuole fallo, mettere. Fallo. Dico, adesso non è che vogliamo. Fallo. Forse ha fatto la cosa giusta, forse ha fatto la cosa giusta. Se lui fa il primo e sbaglia apposta il secondo, si dobbiamo prendere rimbalzo. Sì. Dobbiamo prendere rimbalzo e dobbiamo sicuramente ottenere. Deve fare no. Il primo e deve sbagliare allora, il secondo. Credo che mai finale è stato più caotico. Allora, anche perché abbiamo il cronometro fermo, non sappiamo certo. Quanti secondi ci sono. Certo. Tre punti avanti. Allora, segna il primo, se sbaglia il secondo e loro prendono il rimbalzo, si va a supplementare. Però aspetta, io prima del tiro il cambio lo devi fare perché Scarlata deve essere in campo per il, sì, per il rimbalzo, rimbalzo per quindi il rimbalzo, è giusto. Per il rimbalzo Scarlato in campo assieme a Peppe, devono essere dei leoni, devono stare molto attenti. Lui cercherà il primo e sono cercherà di sbagliare due, il secondo. Dobbiamo fare tutto, guarda, in questi casi si fa come nel mini basket, tutti taglia fuori e la palla cade a terra. Tutti taglia primo, fuori e la palla cade a terra. Vediamo come sbaglia il secondo, se lo tira rigido, deve comunque toccare il ferro per essere valido il tiro. Ecco, lo sbaglia apposta. E Scarlata prende la palla. Ah, fischiala ancora! Abbiamo vinto. Finita la partita e abbiamo vinto 72-70. 72-70. Nino Scarlata a pieno titolo l'eroe di questo incontro oggi. Veramente ci ha regalato questa grande vittoria il nostro pivot di Sant'Agata, Nino Scarlata l'eroe. Non solo vincere la partita, ma si prende tutti gli scappellotti. Posso dire l'ultima mia battuta? Credo che non poteva esserci finale più bello per un incontro così tirato sino alla fine, quindi anche il finale è degno di un bel film. Sì, un bel finale, una bella partita. È arrabbiatissimo Genovese, se la prende con gli arbitri è arrabbiatissimo, però si è ma non vedo non, aspetta, io non capisco quale sia il problema di Genovese, perché cioè, a sto punto 4 secondi, 5 secondi te li hanno ridato, sei andato in lunetta, cioè, hai fatto quello che hai dettato tu il finale. Roberto, fatelo dire da uno che pallacanestro si gioca da tanti anni e credo che in questo condivida anche tutto quanto Ciccio Delise. Roberto, quando una partita del genere contro una squadra che è più forte di te sulla carta, te la giochi fino alla fine, naturalmente l'amaro in bocca ti resta e con qualcuno te la devi prendere. L'elogio ai ragazzi arriva anche dalla nostra regia, Peppe Turdo. Io credo che ancora un applauso vada fatto ai ragazzi del basket Cefalù Zannella! Andiamo. E visto che siamo ancora in diretta su CRMP Radio, Ciccio, facciamo quindi la chiusura di questa radiocronaca. Volevamo sapere solo se il fallo di Maniscalco l'ha voluto o è stato deciso o non deciso, cioè è stato l'arma vincente poi alla fine, perché parecchi allenatori a 4 secondi dalla fine ti fanno fare il fallo sistematico, con la sicurezza del rimbalzo. Diciamo che Scarlata ha chiuso la partita nel modo migliore, ha preso il rimbalzo più importante, ha iniziato il primo quarto, il primo tempo, e ha iniziato così bene anche il secondo tempo. L'esperienza che serviva in questa partita dove c'erano parecchi giovani è venuta fuori ed è stata l'arma vincente. L'esperienza anche di Carlos Gallo con i suoi purtroppo acciacchi. Salutiamo Giacomo Genovese, il nostro carissimo amico allenatore, e gli facciamo i complimenti per questa partita che tutto sommato ha dimostrato che ha veramente dei giovani veramente ma veramente forti, che sono allenati bene da un allenatore così bravo come lui. Eh sì, è finita una partita veramente lottata fino alla fine, giocata a viso aperto da questi ragazzi di Trapani a cui vanno i nostri complimenti. Ma Cefalù fortunatamente ci ha regalato grandissime emozioni, ci ha regalato questi altri due punti in classifica. Intanto ci dovrebbe essere Roberto giù nel partito. E allora Ciccio, se sei d'accordo, io sono con il mister che hai tanto elogiato. Mister, intanto complimenti, siamo in diretta su CRMP Radio. Avviciniamoci un attimino a favore di telecamera. E allora una battuta su questo incontro. Naturalmente intanto dobbiamo fare i complimenti soprattutto per i ragazzi, i ragazzini, possiamo dire, che lei ha messo in campo, che hanno dato un contributo effettivamente notevole a questa partita. Sì, siamo una squadra giovanissima, questo si vede anche nel finale, abbiamo sbagliato le scelte. Questo ci sta, quando sei una squadra giovane, perdere sull'ultimo pallone è anche, come dire, sta nelle regole del gioco. Però tutto sommato abbiamo fatto una buona partita, visto che altrettutto avevamo anche degli assenti pure noi. Abbiamo giocato in condizioni fisiche precarie con qualche giocatore importante, però insomma stare in partita qui a Cefalù è stato, come dire, un buon test, abbiamo giocato abbastanza bene. Qualcuno dall'alto mi diceva il costo del cartellino di Gentile. Non lo so, non è mio, non lo so. Senti, ti volevo chiedere, perché era arrabbiato alla fine? Cosa lamentavi con gli arbitri? Non siamo riusciti a sentire, grazie Beppe, se puoi alzare leggermente l'audio. Perché, dicevo, eri arrabbiato nel finale. La sua arrabbiatura nel finale, non siamo riusciti a capirla. Secondo me il fallo su Gentile era antisportivo, perché il giocatore del Cefalù non poteva giocare la palla, l'ha preso per la maglietta e l'arbitro ha fischiato un fallo normale anziché antisportivo. Però quando c'è un sedicenne, un diciassettenne contro un giocatore più esperto, probabilmente gli arbitri danno sempre una mano al giocatore che ha più esperienza, diciamo così. Comunque Gentile ha fatto una buona partita, ha 17 anni, quindi insomma diciamo che ha dimostrato di avere un buon talento. Credo sia stato uno dei migliori in campo. E allora, se non ci sono ancora domande dall'alto, io cercherei di avere con noi anche Massimo Fiasconaro. Volevo così dire solo a Giacomo che vi aspetta Antonio Castelli per la partita, mi raccomando. E poi chiederò se è pronta la crostata pure. Ed eccolo qua il coach del basket Zannella Cefalù. Beppe, se subito volete girare qualche domanda al mister. Era voluto il fallo di Maniscalco alla fine, Massimo? Se no non ci dorme. Allora, era voluto il fallo di Totò Maniscalco? Lo volevo il fallo, ma dopo 5 secondi. Ma tu lo sai, le cose organizzate non riescono. Bravo, bravo. Bene, bravo. Però viva l'onestà. Allora possiamo dire che è Totò che non ha capito bene. No, ho capito, solo che insomma a casa siamo picciotti. Comunque è andata benissimo, sono contentissimo, abbiamo gestito nonostante abbiamo difficoltà di costruzione per i problemi che sapete, siamo con un solo playmaker, insomma, per quanto possibile. Devo dire però che finalmente sia a Bagheria che qua, io ho visto dopo 5 mesi una squadra che sta tutta insieme, che non molla mai, che nonostante, voglio dire, non siamo sereni nella gestione delle cose della pallacanestro, però ci mette tutto il cuore possibile e quindi le cose vengono poi alla fine anche relativamente ai risultati. Sono contentissimo. L'ultima domanda: abbiamo visto un cambio di Maniscalco che stava tenendo bene Gentile e che forse non abbiamo condiviso. Il cambio sulla marcatura per Gentile, questo furetto, questo ragazzino di 17 anni che veramente ha messo un po' in difficoltà la squadra. Sì, bisogna sempre pensare da allenatore, nel senso che avevo la necessità, intento di tentare di rimettere in partita il mio playmaker, che comunque in difesa poteva tenere quanto a Totò Maniscalco, che comunque stava, pensavo stesse avendo anche delle difficoltà di carattere fisico, perché è chiaro che non si può tenere la difesa di un grande palleggiatore, di un buon playmaker, per 40 minuti è sempre con lo stesso difensore. È chiaro che prendendo 4 punti di vantaggio provo a gestire le forze, a centellinarle, perché sapevo che sarebbe finita punto a punto, e proprio i giocatori importanti secondo me non si tengono 28-30 minuti, ma fra l'altro quando è un gruppo tutti allo stesso livello tecnicamente bisogna fare in modo che tutti siano pronti a dare qualche cosa anche a livello difensivo. Comunque complimenti Massimo e soprattutto grazie per le grandi Massimo, emozioni che ci fai vivere. Una domanda da parte finali. Mia, noi siamo deboli di cuore, quando ce la fai vivere una vittoria facile? Io credo mai. Vai, è più bella, una vittoria del genere è sempre più bella. Grazie a Massimo Fiasconaro. E io penso, Giuseppe, che sia opportuno chiudere questa serie di interviste con il presidente Totò Marsala, costretti a soffrire sempre fino all'ultimo. Totò, e se no non vi divertite? No, noi abbiamo una squadra. Poi tu così, le vuoi fare? Questo è uno schema proprio nostro, arrivare fino all'ultimo a morire. No, non è vero, noi abbiamo una squadra, conosciamo i limiti della nostra squadra, giochiamo e ci divertiamo con la prima, con l'ultima allo stesso livello, ci adeguiamo al loro gioco. Alla fine poi l'obiettivo in questo momento l'abbiamo raggiunto, siamo settimo ai playoff, a 6 punti dall'Licata, squadra da 180.000 euro, che dire. Totò, scusami, ma con una squadra che ci fa vivere queste emozioni non ci dovete chiedere 2 euro per il biglietto del sorteggio, ce ne dovete chiedere 50, ce ne dovete chiedere, sono pochi 2. Sì, hai ragione, comunque diciamo è bello vivere lo sport in questa maniera, voi là sopra che fate una radiocronaca più da tifosi che da giornalista, ma è bellissimo questo, e io lo apprezzano tutti, abbiamo un pubblico favoloso, insomma che vogliamo di più? E infatti noi abbiamo spezzato una lancia a favore del pubblico, momento in cui abbiamo subito una schiacciata, non so se hai notato che il pubblico cipriotese ha applaudito questo bel gesto. Ma guarda, noi abbiamo un pubblico veramente sempre, un pubblico bellissimo, competente, sa applaudire al momento giusto, e come vedi quest'anno qui non è successo proprio niente, nessuna multa ci è arrivata, a Bagheria ingiustamente ci hanno dato 300 euro di multa per tentata invasione, cose assurde. Noi abbiamo veramente un giocatore fortissimo che è il pubblico. Perfetto, quindi elogi Totò, per il pubblico. Totò, un'ultima domanda. Questa sera Nino Sgarlata credo che si sia guadagnato l'ingaggio della stagione, giusto? Ma io credo che Nino Sgarlata, sì, ha giocato, ancora non è ai suoi livelli, però ricordiamoci che ha un infortunio al ginocchio, sta tirando, è molto stoico e questo lo apprezziamo. E ha fatto una bella partita, vai. Grazie per le emozioni che ci date. E allora, io avete parlato di Nino Sgarlata, speravo di averlo al microfono, però è scappato subito, credo, a fare la meritata doccia. A questo punto credo possiamo chiudere questa diretta, Ciccio, salutando ancora i tuoi amici e parenti da Napoli. E naturalmente. Sì, sì, mi seguono da Napoli perché c'è Falù Radio Madonia, Happy Radio, si sente e si vede. E quindi saluto mia mamma, saluto mio nipote, saluto tutti gli amici amanti del basket e saluto pure gli amici di Trapani e spero che tanti si siano collegati per seguire questa partita. E allora a questo punto credo che possiamo chiudere, Giuseppe. Ma niente, io devo dire grazie ad Angelo Arduino perché ci dà una grandissima occasione, quella di seguire il basket in diretta sia video che radio. Guarda, questa sera mi sono emozionato tantissimo, abbiamo questi 2 punti che valgono davvero oro e che valgono la 7ª posizione in classifica in vista dei playoff. E allora mi hai fatto l'assist giusto per ringraziare coloro che hanno consentito questa diretta. Roberto, CRM con le sue dirette è come le Iene, porta bene. È vero. E allora grazie ad Angelo Arduino, grazie a Peppe Turdo che ha curato anche la parte tecnica audio. Ringraziamento a Giuseppe Livecchi e a Ciccio Delisi per il commento tecnico, il commento colorito di Roby D'Antoni. Quindi grazie a tutti quanti voi che avete seguito questa spettacolare, consentitemi il termine, questo spettacolare incontro tra il basket Zannella Cefalù e il Virtus Trapani. Ricordiamo ancora che potete rivedere tutto questo tramite la nostra home page su CRM Happy Radio. Da Roby D'Antoni è tutto e naturalmente al prossimo grande evento, ancora una volta firmato CRM Happy Radio. Angelo, se riuscite, abbiamo visto che facciamo anche un po' di diamo un po' di coloritura a queste nostre dirette, credo sia la tifosa più tifosa in assoluto. Signora, le è piaciuto l'incontro? Sì, sì, ecco. Chi era la nostra squadra, signora? Grazie, alla prossima.